Europa 24. In questi minuti la decisione della Commissione europea su Spagna e Portogallo, che non hanno rispettato gli impegni presi sul fronte della riduzione del deficit eccessivo. Ci colleghiamo immediatamente in diretta con Bruxelles e con Beda Romano. Beda. Sì, buongiorno. La decisione è caduta veramente pochi minuti fa. La Commissione europea ha proposto al Consiglio di cancellare le sanzioni pecuniarie alla Spagna e al Portogallo, a cui è stato rimproverato nelle scorse settimane di non avere risanato i conti pubblici come avrebbero dovuto. Vi era la possibilità in questa circostanza, secondo i trattati, di imporre ai due paesi una sanzione che poteva arrivare fino allo 0,2% del prodotto interno lordo. La Commissione ha deciso di usare la mano morbida in un contesto politico ed economico molto delicato, non soltanto in questi due paesi ma in Europa in generale, e quindi la proposta è stata di cancellare queste due sanzioni. La decisione formale verrà presa dai ministri delle finanze, molto probabilmente con una procedura scritta. Questa è la prima volta che il problema della sanzione a due paesi della zona euro si è posta in oltre 15 anni di unione monetaria. Grazie a Beda Romano da Bruxelles. Il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker ha nominato l'ex commissario europeo al mercato interno ed ex ministro francese Michel Barnier capo negoziatore sulla Brexit. E l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione è al centro dell'incontro fra il presidente del Consiglio Matteo Renzi e la neo premier inglese Theresa May. Dopo Berlino e Parigi ora tocca a Roma: sicurezza, terrorismo internazionale, economia e prospettive dopo il referendum sulla Brexit. Al centro dei colloqui tra la premier britannica Theresa May e il premier italiano Matteo Renzi a Villa Pamphili. Un incontro che avviene nell'ambito del tour della May con le cancellerie europee dopo il referendum del 23 giugno. E dopo aver incassato dalla Merkel altri 6 mesi per attivare le procedure di addio dall'Unione Europea, la premier britannica dovrà ora convincere anche il premier italiano sulla necessità di avere più tempo. La posizione di Renzi, già espressa al Consiglio Europeo di giugno all'Assemblea del PD sabato, è che Londra dovrà attivare al più presto l'articolo 50 dei trattati europei. Niente mielina e niente sconti. In particolare sul tavolo ci saranno le garanzie sul post-Brexit per i cittadini italiani che vivono in Gran Bretagna, tutele che andranno garantite in condizioni di reciprocità. Nel frattempo il presidente della Commissione europea Juncker ha nominato il francese Michel Barnier, ex vicepresidente della Commissione europea ed ex ministro degli esteri di Parigi, come capo negoziatore. Sarà lui a condurre la trattativa per l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea. Guiderà un'apposita task force dell'esecutivo europeo a partire dal prossimo 1 ottobre. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. L'alto rappresentante della politica estera dell'Unione Europea, Federica Mogherini, ha avuto oggi un colloquio telefonico con il ministro degli esteri turco Cavusoglu, che ha dato informazioni sulla situazione dopo il fallito golpe e illustrato le misure relative allo stato di emergenza decretato in Turchia. È tutto per Europa 24. Un saluto da Maria Piera Ceci. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.